fazzoletti e poi vado allo stadio e provoco incidenti, poi sbirri tutti sull'attenti e quando torno a casa mia madre è preoccupata, le urino addosso e poi le tiro in testa una lignata e spacco tutto. We'll be right back.